42. All'alba il drappello era pronto. Si riempivano le bisacce di provviste e munizioni. Ragazze con fucili più lunghi di loro abbracciavano le madri. Uomini curvi sotto il peso del tempo sfoggiavano vecchi tomahawk e prendevano congedo dalle anziane mogli. Tecarioga assisteva alla scena discosto, mormorando una litania. Avvolto in una coperta colorata e con la cresta di piume sul capo, ricordava un gallo rinsecchito. Gli inverni di Niagara gli avevano fatto perdere peso e parecchi denti. Un bambino di pochi anni si rintanò accanto alla cassa che fungeva da sedile e sbirciò i preparativi da dietro i lembi della coperta. Il vecchio lo inquadrò con la coda dell'occhio. Aveva uno sguardo intenso, adulto. La miseria e la fame fanno crescere in fretta. La guerra rende decrepiti. «Non farti vedere o daranno un fucile anche a te», disse. Il bambino si ritrasse, timoroso. «Padrone della vita, ascoltami», mormorò Tecarioga mentre Joseph usciva dagli alloggiamenti avvolto in un mantello di forza. «Guida il braccio di Tayandanega e mantieni sempre saldo il suo cuore». Portava la giubba rossa sopra pantaloni di cervo. Aveva rinnovato la rasatura. Il ciuffo svettava sul cranio. «Fa che conduca questi uomini in battaglia come un grande capo», continuò Tecarioga, «e se dovesse essere il suo giorno, concedigli una morte onorevole». Joseph raggiunse il centro dello spiazzo dove Kanatawakon lo aspettava per porgergli le armi. Incrociò sul petto le fondine delle pistole e impugnò il fucile. In quel momento notò il vecchio Sakem e si avvicinò. «Benedicimi, nobile Tecarioga!» L'anziano guerriero gli sfiorò la fronte con la mano. «Dentro ogni uomo si trova il giusto. Lascia che sia la tua stella lungo il sentiero». Alzò il palmo e lo tenne aperto. «Io ti saluto, nobile Tayandanega». Joseph ringraziò il vecchio Sakem con un cenno del capo. Si voltò verso la dunata di occhi spauriti e stanchi. Non erano stati i sogni della notte a metterla in allerta. Si era svegliata prima dell'alba, nella casa di Molly, e aveva capito perché. La sera prima aveva trovato una ghirlanda di spighe davanti alla porta. Era stata stupida, si era lasciata entusiasmare come una bambina. Quel simbolo nuziale non era un dono, ma un messaggio. La gioia le aveva offuscato la mente. Adesso era tutto chiaro, anche se avrebbe dato qualunque cosa per sbagliarsi. Si bloccò sulla soglia della capanna. Philippe stava infilando a tracolla la borsa, il fucile accanto, le armi bianche alla cintura. Esther sentì mordere la rabbia. «Perché?» chiese. Philippe le si avvicinò e le sfiorò la mano. «Sono più giovane di Peter, non li lascio da soli». Esther scosse la testa senza riuscire a parlare, sentì le lacrime ritrovare la via, dopo che per molto tempo erano rimaste sepolte in fondo all'anima. Le strinse la mano, lei lo abbracciò, la bocca vicinissima alla sua guancia. «Portami via da questa distruzione». Philippe le accarezzò i capelli e il viso. «Tieni pronta una barca, io tornerò». Esther si avvinchiò a lui, respirando il suo respiro. «Noi dobbiamo vivere, Philippe. Dobbiamo vivere per chi non può più farlo». Il pianto le strozzò la voce. Lui le asciugò le lacrime con una carezza. Esther sentì il fiato mancare. Si accorse di non riuscire a pensare al momento successivo, all'ora che sarebbe venuta, al giorno dopo. Si sentì su un baratro, pietrificata, e implorò il cielo che accadesse davvero, che li tramutasse in statue, che niente potesse sciogliere quell'abbraccio. Philippe la strinse più forte. «Tornerò a prenderti e andremo via». «Giuralo», disse lei. «Te lo giuro, Esther Johnson». Sciolse l'abbraccio e le accarezzò di nuovo il volto. «Dillo ancora», sibilò lei, trattenendo i singhiozzi. «Te lo giuro». Lo sentì raccogliere il fucile. Non alzò gli occhi per vederlo andare via. Tecarioga lo vide raggiungere il gruppo. I giovani sorrisero. Qualcuno sollevò il fucile e lanciò un grido di entusiasmo. Joseph diede l'ordine e partirono di corsa. Passarono davanti al Sakem, rapidi e leggeri. «Guarda, piccolo», disse il vecchio, rivolto al bambino accucciato ai suoi piedi. «Guardali bene. Un giorno, quando io sarò morto da tempo, potrai dire di aver visto Tayandanega e Rona Terionte correre insieme».